Lei quando è che ha iniziato a cercare dipendenti e perché? Guarda, io ho cominciato a mettere gli annunci a inizio dell'anno per trovare dei collaboratori per venire con me a fare fiere, mercati, centri commerciali, per fare pubblicità. Visto che c'è la crisi, adesso non è più come una volta che il lavoro viene da noi, dobbiamo andare noi dal lavoro. Quindi se noi ci facciamo vedere tutti i giorni, qualcuno ci può chiedere ma cosa fate, avrei bisogno di... Se uno sta in ufficio tutto il giorno, c'è poco da fare. Io addirittura le dirò di più, Padiglioni, mi ho messo degli annunci sui giornali, quelli cerca personale, tutto quanto. Un giorno avevo 10 appuntamenti, di cui 2 extracomunitari di Reggio Emilia. Lo sa che sono venuti solamente i 2 extracomunitari da Reggio Emilia in treno, degli italiani non se ne è presentato neanche uno? No, me la ridice questa, Le dico, avevo 10 appuntamenti fissati dalle 9 della mattina alle 10, alle 11, ok? 12 persone, di cui 2 extracomunitari. Sono venuti i 2 extracomunitari da Reggio Emilia, le altre persone, se tu provi a chiamarle, non ti rispondono neanche al telefono. Io stamattina avevo un appuntamento alle 9 in ufficio con una ragazza che abita qua vicino, mi ha mandato il messaggio su Facebook, mi ha detto: guardi, mi dispiace, io stamattina non posso venire perché c'è un problema in famiglia. Fin per l'amor di Dio che tu possa avere un problema in famiglia, dammi un colpo di telefono, mi dici: guardi, oggi non posso venire perché mi è successo, mi è morto il cane, poverino, e vengo domani, vengo fra 2 giorni. Non si sente più nessuno. Allora, ma lei che cosa offriva? Perché a questo punto magari offriva una cosa, mi dica. No, no, io non ho detto nulla, sto cercando del personale, dei collaboratori. Ma lei non ha chiarito quanto, non ha chiarito quanto avrebbe pagato, che tipo di contratto, no? Anche dicessi quanto ti... Ma il problema non è tanto fatto del pagare o pagare. Me lo può dire a me, no? Ma guardi, se uno ha voglia di lavorare, i suoi 1200-1300 euro al mese li guadagna tranquillamente. Beh, che è sempre meglio che stare a casa per come la vedo io, Io guardi, io che ho da mantenere 3 figli, se uno mi chiama per pulire una canna a fumare e andare a Reggio Emilia a prendere 80 euro, io prendo il mio furgoncino, vado a Reggio Emilia, vado a pulire la canna a fumare e guadagno gli 80 euro.